Tutto quello che aveva di fronte poi ha anche inseguito alcuni bambini all'interno della scuola. Nella ricostruzione del procuratore Michel Vallée c'è tutto l'orrore della strage compiuta questa mattina davanti a una scuola ebraica di Tolosa, nel sud-ovest della Francia. 4 i morti, 3 dei quali bambini, un insegnante franco-israeliano con i suoi 2 figli di 3 e 6 anni e un altro studente di 10. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi perché sono diverse le persone ferite, anche in modo grave. Erano da poco passate le 8 quando, a bordo di uno scooter, il killer, casco in testa, ha aperto il fuoco sui bambini fermi davanti all'ingresso della scuola. Poi è fuggito. La dinamica e le armi usate, una pistola calibro 11-43, lasciano supporre che sia lo stesso autore dei 2 agguati contro militari compiuti la scorsa settimana sempre a Tolosa e nella vicina Montauban. Agguati costati la vita a 3 soldati. Su tutti gli episodi ora indaga il Tribunale Antiterrorismo di Parigi. Mentre Israele e le autorità ebraiche francesi si dicono inorridite e sconvolte per quanto accaduto, il presidente Nicolas Sarkozy ha annullato tutti gli impegni per accorrere sul posto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una settimana cruciale questa per la trattativa sul lavoro. Tutti gli aggiornamenti in diretta da Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno. Vertice convocato d'urgenza da parte di CGIL, CISL e UIL questa mattina per cercare di sbrogliare i tanti nodi legati alla riforma del mercato del lavoro dopo l'accelerazione impressa al confronto dal governo. Il faccia a faccia Camusso, Bonanni e Angioletti è terminato da pochi minuti. Non ci sono ancora indiscrezioni, ma fonti dei rappresentanti dei lavoratori fanno sapere che l'obiettivo delle 3 confederazioni è quello di trovare una sorta di intesa tra loro, una controproposta sull'articolo 18 da presentare domani al tavolo di Palazzo Chigi. Sul tema intanto è il ministro del lavoro ad intervenire, Fornero. Auspica una riforma condivisa firmata da tutti e comunque tranquillizza, non sarà una riforma punitiva. Sentiamo allora il ministro intervenuto ad un convegno del Sole 24 Ore. Io ho sempre sostenuto che il mio impegno è massimo perché si raggiunga una intesa. Io credo con molta sincerità che la riforma raggiunta con il consenso delle parti sociali abbia un valore aggiunto, che la stessa riforma approvata senza il consenso delle parti sociali non ha. Momento dunque di riflessione all'interno del sindacato, i tempi restano comunque stretti. La stessa Fornero ha ricordato che in mancanza di un'intesa il governo non discuterà all'infinito e porterà la propria riforma in Parlamento. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. La discussione sulla riforma del lavoro avviene proprio nel decennale della morte di Marco Biagi. In diretta ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, le celebrazioni della morte di Marco Biagi si intrecciano con la riforma del sistema dei lavori. I politici di tutti gli schieramenti ricordano la figura del giuri lavorista ucciso dalle BR nella settimana cruciale per l'intesa tra governo e sindacati. Per il capo dello Stato Giorgio Napolitano la ricorrenza di oggi serve per guardare al futuro. Le istituzioni repubblicane ricordano Marco Biagi per il servizio reso al progresso culturale e sociale del Paese. Il sacrificio di Biagi dia forza alla riforma del lavoro, auspica l'ex ministro del welfare Maurizio Sacconi del PDL, mentre il presidente del Senato Renato Schifani ricorda come l'apporto di Biagi alla riforma del lavoro sia ancora fondamentale. Per Vannino Chiti, PD, Biagi è stato un riformista coraggioso, uno studioso, impegnato, un servitore dello Stato. Per Gianluca Galletti, UDC, Biagi aveva capito cosa attendeva l'Italia e non voleva rassegnarsi al precariato. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E sui rischi di un ritorno del terrorismo in Italia sentiamo il ministro dell'Interno Cancellieri al microfono di Raffaella Calandra. Il modo migliore sarebbe quello di fare un'intesa bella, solida, duratura sul mercato del lavoro che dia la possibilità ai giovani di avere prospettive di occupazione, alle industrie di poter lavorare e comunque di diventare competitivi nel mercato internazionale. Un bel patto che tenga conto dei bisogni di chi lavora e anche delle necessità di una società in evoluzione. Speriamo che proprio il ricordo di Marco Biagi, che era uno che queste cose le aveva viste, che aveva capito il mutare dei tempi, si possa trovare una cosa che sia giusta sotto il profilo dell'impegno sociale, della solidarietà e dello sviluppo, e nello stesso tempo sia giusta per chi deve lavorare. Questo accordo che sembra ormai vicino va in questa direzione, secondo lei? Io penso proprio di sì. Credo che ci sia la volontà di trovare la quadratura del cerchio per conciliare le le diverse esigenze. Marco Biagi appunto lavorava ad un progetto di riforma del mercato del lavoro, c'era l'argomento delicatissimo dell'articolo 18 che ritorna anche oggi. Marco Biagi 10 anni fa cadde sotto il fuoco dei brigatisti. Questo pensiero nel momento in cui oggi si discute di riforma del mercato del lavoro è per lei una preoccupazione? Biagi è morto 10 anni fa e non dimentichiamo che è morto poco dopo D'Antona. Loro hanno pagato con la vita un'evoluzione in questo settore che prevedeva, comportava proprio dei cambi strutturali mentali su queste tematiche. Sono certa che il loro sacrificio non è stato inutile, perché su di questo si è molto discusso, si è molto cresciuti e sono cambiate tante cose. La situazione è sempre molto complessa quando si affrontano questi temi, ma io credo che c'è una consapevolezza più forte da parte di tutti di essere molto sereni nell'affrontare queste problematiche. Oggi una situazione come quella che ha portato all'omicidio prima di D'Antona e poi di Marco Biagi, secondo lei è da escludere? Sono sempre temi molto delicati e quindi non ci sa mai, la sensibilità magari può sfuggire in qualche modo, però io penso che ci sia una maturazione diversa delle problematiche e quindi ci sia una maggiore serenità. Oggi in Italia non può succedere di nuovo quello che è successo in questi due casi? Penso di no, mi auguro di no. Sicuramente c'è un clima ideologico molto ben acceso, cioè adesso si discute, si parla in maniera molto così conflittuale, è vero, anche forte, ma senza arrivare a delle derive, a degli estremismi che invece purtroppo nei tempi di Marco Biagi ci sono state, ecco. Quindi sicuramente c'è un diverso approccio. Ed ora è Radio Day, che oggi dedichiamo a Tutto Pensioni, iniziativa del gruppo 24 ore sulla riforma del sistema previdenziale in collaborazione con IMS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Radio 24 Day. Buongiorno da Laura Bettini e questa è un'occasione per parlare di pensioni, sì, ma non solo. Sentiamo ad esempio Antonio Mastrapasqua, presidente IMS, nel corso della tavola rotonda. Molto spesso, troppo spesso, è stato più semplice adattare il sistema delle pensioni a criticità di qualsiasi genere, non voglio entrare sul tema degli esodati. Oggi io credo, senza voler sicuramente intervenire in un dibattito politico-sociale, c'è una riforma delle pensioni che andrà vista e studiata, ma non si rifaccia l'errore di adattare la parte più semplice perché dà più consenso, e non invece la parte più complicata che è il mondo del lavoro e del mondo di ammortizzatori. Ma se le pensioni non dovranno più servire da ammortizzatore sociale, che ne sarà di chi attende la pensione dalla mobilità? Il ministro Fornero in collegamento ha promesso equità, sentiamo però intanto i consigli di uno degli esperti del forum Tutto Pensioni. Per i lavoratori in mobilità c'è una situazione particolare, diciamo di impasse, perché dobbiamo attendere l'emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro entro il 30 di giugno. Questi lavoratori potranno andare in pensione con le vecchie regole, ante riforma, anche se matureranno i requisiti dal 2012 in poi. Però devono, per quanto riguarda per esempio i lavoratori in mobilità, essere stati oggetto di un accordo di mobilità con le organizzazioni sindacali entro il 4 di dicembre del 2011. In più, questi lavoratori devono maturare il requisito alla pensione con le vecchie regole, ma entro la data massima di fruizione della mobilità. Poi però la legge di riforma ha previsto per ogni anno uno stanziamento di risorse. Questi lavoratori dovranno entrare in una sorta di graduatoria basata sulla data di cessazione del rapporto di lavoro, e quindi a quel punto si potrà vedere se entreranno o meno nell'ambito delle risorse stanziate e potranno usufruire dei benefici. Quindi il decreto del Ministero del Lavoro sarà importante per stabilire i criteri di accesso a questo beneficio. Gli esperti rispondono a tutte le vostre domande al numero telefonico 02 30 30 00 30. Le risposte le potete ascoltare anche qui su Radio 24 o domani sul Sole 24 Ore. È tutto. Grazie a Laura Bettini, ora parliamo invece dei redditi dei deputati presentati oggi alla Camera. È sempre lui il più ricco e lo è ancor di più dell'anno passato. Silvio Berlusconi si conferma il paperone del Parlamento italiano. 48 milioni di euro di reddito imponibile, 8 milioni in più di quanto dichiarato l'anno prima. In particolare, come variazione in aumento avvenuta nel 2011, risulta l'acquisto di un immobile a Lampedusa in data 28 giugno. A distanza siderale dall'ex premier si piazza l'attuale premier Mario Monti, che dichiara 1,5 milioni di euro. Non poca roba, visto che il professore risulta essere il più ricco tra i senatori a vita. A vincere la sfida tra le massime cariche parlamentari è invece il presidente del Senato Schifani, che batte anche quest'anno, e per poco più di 20.000 euro, quello della Camera Fini. Il primo con un imponibile di 223.000 euro, il secondo di 201. Vince invece la sfida tra A, B e C Angelino Alfano, seguito da Casini e Bersani, mentre tra i leader di partito il più ricco in assoluto è Fini, seguito da Di Pietro. Altra curiosità, e non di poco conto, Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, accusato di aver sottratto ai conti del partito oltre 13 milioni di euro, ha dichiarato nel 2011 304.000 euro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Il fatturato dell'industria a gennaio cala su base mensile del 4,9% e su base annua del 4,4%, corretto per effetti del calendario. Lo rileva l'Istat aggiungendo che il ribasso tendenziale è il più forte dal novembre del 2009 e pesa l'andamento del mercato interno. Scendono gli ordinativi del 7,4% su base mensile, dato destagionalizzato, e del 5,6% su base annua, dato grezzo. L'Istat rileva che è il peggiore dall'ottobre del 2009. Il fatturato degli autoveicoli su base annua infine è sceso dell'8,8%. E gli ordinativi sono diminuiti del 6,1%. E ora un aggiornamento sull'andamento dei mercati finanziari con Deborah Rosciani. Buongiorno. Buongiorno. Una settimana è partita in negativo per le borse europee, con l'unica eccezione di Piazza Affari, che pure è partita in negativo questa mattina, poi ha azzerato le perdite. Adesso segna più 0,02%. In ogni caso si muove sulla parità, mentre sono in calo dello 0,6% Parigi e Francoforte, Londra meno 0,40%. L'euro sul dollaro a 1,3159 a Piazza Affari oggi. Acquisti piuttosto forti su Parmalat, Salvatore Ferragamo, i titoli sono in rialzo di 3 punti, su Monte dei Paschi più 2,76%, ne parleremo più avanti, c'è la designazione alla presidenza di Alessandro Profumo, e poi Fiat Industrial in rialzo dell'1,51%. In calo invece di 1,5% UbiBanca, meno 1,26% per A2A, lo spread fra BTP e Bund ruota sui 280 punti base. È tutto. Ben ritrovati da Adriana Fracchi, anzitutto le notizie principali di questa edizione di GR24, orrore alla scuola ebraica di Tolosa, 4 uccisi, 3 di loro sono bambini. Incontro tra CGIL e CISL e UIL per la controproposta sull'articolo 18. Redditi, Berlusconi al top, Alfano più di Bersani e Casini. Italiani rapiti in India, ultimatum scaduto, ma si tratta con il gruppo maoista. Primo piano il maxi blitz delle Fiamme Gialle, oggi nel napoletano arrestate decine di persone, tra cui 16 giudici tributari. 16 giudici tributari, 8 tra funzionari e impiegati presso commissioni tributarie, un noto avvocato che è anche docente universitario e un commercialista, sono tra le persone che la Guardia di Finanza ha arrestato oggi nel napoletano nell'ambito di un blitz anticamorra. In tutto sono state eseguite 22 ordinanze di custodia in carcere, 25 domiciliari e 13 divieti di dimora a Napoli. L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Federico Cafiero De Rao e dai PM Francesco Curcio, Alessandro Milano e da Teresi, è concentrata sulle attività degli imprenditori Ragosta, che attivi nel settore siderurgico nel corso degli anni hanno messo in piedi un vero e proprio impero economico con l'acquisto, tra l'altro, delle Acciaierie Sud, di alberghi a Taormina e a Vietri sul Mare, un palazzo storico a Roma e del biscottificio Lazzaroni. Secondo quanto emerso dall'indagine, i Ragosta avrebbero reimpiegato denaro del clan Fabrocino, che opera nella zona vesuviana. Inquirenti e finanzieri hanno accertato nel corso dell'inchiesta che decine di contenziosi tributari sarebbero stati oggetto di episodi di corruzione e che in tal modo si sarebbero risolti con grave danno per le casse dello Stato in maniera favorevole ai ricorrenti. Tra gli arrestati c'è anche un docente universitario, Enrico Potito, titolare della cattedra di diritto tributario della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Napoli Federico II, nonché avvocato ed esercente l'attività forense in materia di contenzioso tributario. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Le liti fiscali di minore entità fino a 20.000 euro potranno essere risolte con una mediazione che eviti il contenzioso e che garantisce una riduzione delle sanzioni al 40%. È l'iniziativa presentata oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Beffera. E ora la nostra consueta rubrica dedicata al paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Due etti di prosciutto, olio, pane, totale 10 euro con scontrino fiscale. Peccato che lo scontrino non valesse nulla perché il supermercato lo azzerava regolarmente. È accaduto a Bergamo. In pratica, per ogni acquisto, i clienti passando alla cassa ricevevano un documento fiscale che sembrava a tutti gli effetti regolare, ma gli scontrini erano immediatamente annullati, approfittando delle specifiche funzioni per la correzione degli errori, come spiega il colonnello Giovanni De Roma. Il registratore di cassa regolarmente permette la funzione di annullamento allo quale viene commesso un errore, quindi viene digitato un importo per errore, anziché magari scrivere 1000, scrivo 10.000, c'è una funzione che permette di annullarlo e quindi lo scontrino viene annullato, ma dovrebbe essere riemesso quello regolare. Nel caso in specie praticamente gli scontrini regolari non venivano emessi e alla parte veniva lasciato quello che era stato annullato, che non aveva nessun valore dal punto di vista fiscale perché non poteva essere riportato poi alla fine tra i corrispettivi riscossi. Considera che in 5 anni con questo sistema sono stati sottratti quasi 500.000 di euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora sentiamo un ritratto di Alessandro Profumo, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Non è mica la fine del mondo, non c'è solo UniCredit. In una giornata ancora estiva, nel settembre 2010, Sabina Ratti, moglie di Alessandro Profumo, commentava così fugacemente l'uscita dalla banca di suo marito, che l'aveva guidata per 13 anni. No, non c'è solo UniCredit. E a quasi 2 anni da quell'uscita di scena, fragorosa per l'aver messo in piazza scontri e rapporti di potere, ma anche per l'impressionante liquidazione da 30 milioni, Profumo vi torna. Se c'è bisogno di fare qualcosa, di cercare di dare un contributo positivo a far funzionare le cose, io diciamo alla tenera età di 54 anni mi metto in gioco. Il Bruno a cui parla è Tabaci, l'invito è a impegnarsi in politica, ma insomma era un'altra epoca appena 6 mesi fa, a dire il vero. Profumo ha 55 anni, il cognome e il tratto un po' supponente gli erano valsi il soprannome Arrogance, le capacità quello di Alessandro il Grande, ultimo di 5 figli è nato nel 57 a Genova, ha vissuto a Palermo e poi Milano dove si è laureato alla Bocconi studiando mentre faceva la gavetta al Banco Lariano, poi nella società di consulenza McKinsey. Nel 95 approda alla carica di direttore generale dell'allora Credito Italiano e 2 anni dopo ne diventa amministratore delegato. Nelle sue mani i Credit si trasforma in UniCredit e negli anni, con l'acquisizione della tedesca Hypo Vereinsbank e poi la fusione con Capitalia, la porta ad essere tra le prime 10 banche europee. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora ci spostiamo all'estero, precisamente in India, per la trattativa in corso sulla liberazione dei 2 turisti italiani rapiti e per la vicenda dei Marò. Ancora silenzio e nessun segnale, molte ore dopo la scadenza di ieri sera dell'ultimatum lanciato nell'audiomessaggio dai ribelli maoisti che venerdì scorso hanno sequestrato Paolo Bosusco e Claudio Colangelo, 2 italiani sembra colpevoli di scattare delle foto ad alcune donne indiane sulla riva di un fiume. L'offerta di trattativa avanzata dalle autorità dello stato di Orissa avrebbe di fatto sospeso la scadenza. I maoisti ribelli hanno chiesto la fine delle oppressioni, delle operazioni di rastrellamento e l'accettazione di 13 rivendicazioni per giungere al rilascio dei 2 connazionali, tra le quali la liberazione di leader del Partito Comunista dell'India. Ci sono novità invece dall'India per la vicenda dell'arresto dei 2 Marò, Massimiliano La Torre e Salvatore Girone, i militari in servizio sulla petroliera Enrico Alexi accusati di aver ucciso i pescatori indiani. La carcerazione preventiva per i 2 è stata estesa per altri 14 giorni su ordine del magistrato di Kollam, davanti al quale sono comparsi stamattina. Intanto all'alta corte del Kerala è iniziata l'udienza per il ricorso italiano sulla giurisdizione. Continua l'attesa per i 2 Marò, interrotta solo dalle parole di Massimiliano La Torre. Auguri a tutti i papà. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di cinema, della storia di Piero. Di Pietro, aspirante attore, arrivato a Roma dalla Sicilia, che affitta una casa che si rivelerà abitata da gentili fantasmi, una compagnia teatrale degli anni 40. Si tratta di Magnifica Presenza di Ferzan Özpetek, e sentiamo il regista al microfono di Marta Cagnola. A te è sempre piaciuto l'incontro di mondi, ma questa volta hai fatto molto di più. Hai fatto incontrare 2 epoche, una struttura molto complessa. Sì, complessa, poi anche alla fine diventa anche molto semplice, però all'inizio mi sembrava molto, molto difficile far incontrare 2 mondi così lontani, staccati, poi invece, sai, sulle fate ignoranti, Margherita Bui andava in una casa, frequentava delle persone completamente lontane dal suo ceto sociale, dalla sua mentalità. Qui non solo quello, ma qui c'è oltre questo anche proprio l'epoca, la testa, mentalità completamente diversa. Poi sono vivi e morti che si incontrano. Questo è stato all'inizio molto complicato, sembrava, poi invece si è risolto bene. Hai a che fare con la storia dell'Europa inevitabilmente, e anche la storia del mestiere, perché loro sono attori. Hai deciso di recuperare la memoria in questo doppio binario? Sì, perché poi oggi, se tu a un ragazzo di 15 anni, di 16, 17 fino a 20, vai così tranquillamente, chiedi della storia dell'Italia, della storia di quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, o l'unità d'Italia, la bandiera, l'educazione civica, per esempio, non sanno niente di niente. Invece la memoria è molto importante, non parlo solo di ebrei, di quelle che ma proprio in generale la storia è molto importante, la memoria molto importante. Quindi io c'ho sempre la fissa di incontrare e frequentare le persone anche grandi di età per capire tante cose direttamente. Insieme a questo, il teatro, che è praticamente il seme delle arti di recitazione. Quindi anche se io non ho mai fatto il teatro, a parte al liceo o l'opera così, trovo molto molto affascinante il mondo di recitazione, poi quella degli anni 30 ancora meglio, perché è molto diverso da quella di oggi, quindi mi affascinava molto. Era il calcio. Questa sera il posticipo Roma-Genoa chiude una giornata di campionato caratterizzata dal pareggio tra Udinese e Napoli. I partenopei, in svantaggio di 2 gol, riescono a recuperare in extremis con una doppietta di Cavani, rimanendo in corsa per la Champions League. E prosegue intanto la crisi infinita dell'Inter, lo 0-0 in casa con l'Atalanta e l'ennesima giornata no di una stagione sempre più sofferta. Moratti, deluso, ha lasciato lo stadio 10 minuti prima della fine della partita, ma il tecnico Ranieri continua a credere nei suoi giocatori. Sentiamolo. C'è la delusione, vogliamo far bene e non ci riusciamo, però insomma non demordiamo, non molliamo la presa. Il presidente è sceso nel primo tempo, ci ha incitato, per cui sappiamo quello che stiamo facendo. Non è una stagione facile, però io ai ragazzi non gli posso rimproverare nulla. In coda il colpo è del Novara, che vince a Siena, mentre il Lecce non sfrutta l'occasione pareggiando col Palermo. Continua a volare invece il Catania, che ha raggiunto in classifica l'Inter e la Roma almeno fino a questa sera. In Sicilia crescono i sogni europei. Sentiamo Vincenzo Montella. Quindi bisogna porsi dei nuovi obiettivi, perché sarebbe un peccato non approfittare di questo momento, di questa crescita che la squadra, anche i singoli, sta avendo, soprattutto i singoli stanno avendo, e per finire degnamente questo campionato e per avere ancora, darci ancora qualche soddisfazione e dare ancora qualche soddisfazione ai nostri tifosi. A Catania si sta bene, si vive bene, si mangia bene, ci sono dei posti splendidi, quindi sarebbe un peccato non apporsi degli obiettivi e fare una vita diversa, quale quella consona a un atleta, no? Voglio dire, anche inconsciamente. Quindi questo da martedì ce lo poniamo, questo nuovo obiettivo, che potrebbe essere quello di consolidare un 8º posto, potrebbe essere quello di provare a fare qualcosa in più. È tutto per questo notiziario curato da Daniele Biacchessi. Un ringraziamento in regia a Paolo Corleoni, un saluto e un augurio di buon pomeriggio da Adriana Fracchia. GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.